attenzione Gian Maria. Allora, siccome c'è tre, a te dottore. Allora Gian Maria, buonasera. Ah, sì, buonasera E allora? Ho detto buonasera. Buonasera ho detto. E allora, cosa mi racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Nulla. No, ci hai detto a raccontare, sempre le stesse cose, no? Infatti, sempre le stesse cose. Andiamo bene, andiamo. Gatti, tira. E io pensavo che ora avevo qualche cosa di diverso. Dice che era rimane oggi. Cosa era oggi? Detto, quello che era ieri è oggi. Catti, hai visto che qua alle luci gialle hanno allestito un ospedale in militari? Per il coso, per fare i tamponi. Catti, ne hanno piazzato bene. Ne so poco baracche e baracconi. Poi ci sono i passaggi a forza, no? Devi passare proprio sull'ordine come sono messi i cancelli. Se vieni a casa vai in un piazzere, però devi venire a farmi un vaso, sennò io non ando nessun luogo. E tu fatto l'hai tampone? No, a chi lo devo fare? Si paga a fare il tampone. Mi pare di sì. Cata, e quindi devo andare io a pagare a farmi un tampone, ma che me ne c'è da mezzo. Ma almeno sei tranquillo, capito? Uno se c'è il sintomo va in ospedale o cosa se lo fa di va. Ma forse sei più tranquillo qua che all'ospedale. Infatti, sintomi non ne ho, non c'ho nulla, quindi sono più tranquillo. Per quello controlla sempre la temperatura attorno. Quello è ogni giorno che me la controllo. Infatti. No, io ho la macchinetta, la punta su fronte e so già quanto c'ho. Infatti, allora, già far così bisogna fare. Se no, oi. La seba deve reggia. Bacchisetto oggi, l'ho sentito. Non lo so, io non ho sentito a nessuno, me l'ho acceso poco fa. Io pure, sarà una mezz'oretta già acceso, non prima. Qua di campagna, ma ci faccio una passeggiata e poi mi rido cazzato. Già acceso. Capiva, Luca del Monte, Maruele, Natalino, e da poi cazzo, e un altro, da poi c'è un Claudio mi sembra. A dove? Chi è vero? In un'altra frequenza ce l'ho, come ti mai? Non è che non verranno in treni. Ho detto che c'erano loro, io ho salutato a Manuele quando è entrato. Natalino stava chiedendo il controllo, ho salutato Luca e da poi è venuta gente e ho chiuso, capito? Però sentivo, l'avevo abbassato e sentivo che c'era Claudio. Mi sembrava la voce sua, Io no, ce l'ho in un'altra frequenza, ce l'ho, quindi. Non ho neanche ascoltato io. Io quando accendo li accendo tutti e due, capito? Non è che ne accendo uno solo. Magari se ne ho voglia ti chiacchiero un po'. E non ho voglia ascolto magari e così via, capito? Io invece rimango all'ascolto e boh. Due vacche sto uscendo a te. Cos'è Gian Mari? Con due vacche ci arrivo, sì? A voglia! Catta! Sono arrivi con quello! Col bastone della scopa, Senza un bastone di scoppa, bubù. E allora, con quella altra più lunga entro, con quella altra più lunga entro, magari quello l'ultimo l'ho messo a 3 e sembra che non entri nella TV, capito? Meno male. Però gli altri si possono abbassare ed entrano, capito? No, è meglio così. Infatti anche quello che ho io l'ho abbassato. E sta uscendo con pochi watt. Ci sentiamo, tra di noi ci sentiamo. 2 watt anche troppo, certo, mi sta ascoltando tutti, che mi sento anche a Monteoro, si può immaginare, che 2 watt vanno bene. Oh, già non mi è mai piaciuta a me la potenza, Però va bene, 2 watt per noi, per il poco, per 2 chiacchiere che faccio, anche troppo, dai. Aspetta, ha voglia. Ha voglia se va benissimo. 8, dammi 5 minuti, alle 6 devo prendere una pastiglia. Sono qua, chiama. Eccoci qua. Gianmari, ma bene ci sto arrivando, sì. Catta, un bambotto. E a fondo. La radio buona, no, più che altro la radio. Oh, è perfetta, perfetta. Con l'ultimo no. Oh, con il presidente sono. No, con quello va bene. È pulita la radio. La radio è pulita, bella, tranquilla. Mettila puntato un attimino. È 9.40, sì, dai. E c'è vedo il tangere si andava. Ma sono 4 watt quello lì. Ma fai 5. Ma vanno bene, dai, la radio è pulita. È tranquilla, non c'è nessun rumore. Per cui va bene, va bene. A rimane sera mi ha detto che a me mi costava basso. Ma bacchino. Ieri sera, Forse l'apparecchio di Bacchiglio. Sicuramente. Diversamente non può essere, perché io ti sentivo bene, Marino ti sentiva bene, Bacchiglio ti sentiva basso, perché vuol dire che ho pulito le orecchie a Baracchino Bacchiglio e ti sentiva basso. Non lo so, sarà così, A me va via troppi sblatteri, va via. No, va bene, dai. Anche ieri sera ti sentivo bene, tu. Infatti strano che ti sentivo basso duro. Ma non è che aveva messo l'attenuatore, non va via. Cosa ne so, Non so nulla. Io lo sentivo bene, ma perfetto anche lui. Perché tu la sentiva bene, ma lui a te ti sentiva basso. Già l'ho sentito ieri sera quando hai detto. Però mi sembrava una cosa strana, Infatti a me pure. Se mi pare strano che mi tenga a basso. Tutti mi anche chi da ottava mi tendiava e mi sentiva basso lui. Ma secondo me era parecchio suo, non un mio. Te lo dico subito, quando uno esce basso per qualche modo si dice no, perché devo dire che ti sento male, perché non posso dire, se ti sento bene, ti sento bene, basta. Ed è così. Ieri sera io ti sentivo bene, poi ho sentito anche Marino, ti sentiva bene anche lui. Era solo l'apparecchio di Bacchino che ti sentiva basso. Forse adesso, non lo so, ma lui aveva l'899 mi sembra ieri sera, no? Via! Aveva l'899? Ma andava, non saccio. Ma forse era con qualche antennino che ti sentiva basso per quello. Perché io mi sono accorto una questione, no? adesso qua c'ho quel basso di scopa, mentre che là dall'altra parte c'ho quell'antenna lunga, no? Beh, quella c'è più ricezione, qua ricezione non ne ho. Ah, io devo ascoltare i cosi, no? Ti sento bassi bassi in mezzo a correre, mentre che là lo sento bene. Ma non vuol dire nulla, Gianmarino. L'importante è che ascolti con la radio e boh. Sì, ma davvero un'antenna a, diciamo, da 50 anni, avere un antennino piccolo c'è la differenza anche di ricezione, c'è di trasmissione c'è anche di ricezione. Come ti dice Emanuele, c'ho l'antennino di gomma. Sì, vabbè, tu, cazzo, ma bisogna anche capire queste cose, no? Senta, mi fa ridica, non dice l'antennino di gomma. Quello che li crede, a me, quando dico l'antennino di gomma, che sia con l'antennino di gomma, o sia con l'antennino, ma non mi interessa, capito? Ognuno fa quello che crede, dice quello che crede. Infatti, io, ma in me, io sono con chi sa chi va, Gibbo. Tutto fa brodo per me, tu. Io quando mi dici così, non è che faccio diversamente, capito? Non va bene. Ma mi dici di fare di dico, tu? Infatti. Io credo che va già antennino, ma c'è un antennino. Ma che siamo vicini, intendiamo, vedi chi dove lontano, vedi che intendiamo a te ci fossi. Quindi? Certo. Ma lì sono tutti con l'antennino, tutti con l'antennino di gomma. Io dico va bene, lo dico che non è possibile, no. Mi dice così, vabbè, io ci credo, anche se non sei, ma ci credo, capito? E non è che mi interessi più del tanto, capito? Un attimino, Gianmarì. Gianmarì. Ma chi io era al telefono? Te non sa cosa. Cosa tu mi vedi? Attenzione, signor Bacchisio! Ole, ole, signor Bacchisio! Ehi, lascia ripiattare tutto, sto! Faccio di accendere, boh! Andiamo, ve andiamo, caspita! Allora, Gianmarì! Non è entrato, no? No, ancora no! È così, è tu! Hai visto che già entra! Adesso sta fatto il riposino! Si fa la chiacchieratina e ammazza la serata, va, fra poco già entra. Sì, infatti è così. Che noia, boh. Guarda, mi sono parlato al magazzino, un po' carino. Da voi, se questo fate me li sono cazzato, boh. Aspetta, Gianmarì, che forse Nintendo... Chi è forse è un assuganario? Bacchisio! Attenzione, Bacchisio! Pace Carlo, tu! Oh, forse è come un tecnico frugoso. Attenzione, signor Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Forse no, ho toccato qualcosa, che cosa, e non riesce a entrare. Ehi, dai, il tempo, dai! Magari avrebbe cosa e la vada tra un po' dell'altro e si può dire più subito. Fare un tempo ma è entrato. Allora non so che c'era sopra, c'era Yoshi. No, adesso in quello lì va soltanto sino a 40 e bu. Allora già entra là. Già entra dopo. Già entra dopo. Sicuramente ha toccato le cose dello squelce e non ci sente. Può essere anche. Attenzione, signor Bacchisio! Andiamo. Bacchisio, se pensi la bufera! Ha detto Bacchisio, se ti sei perso! Attenzione, signor Bacchisio! lo sento, in lontananza lo sento. Ah, lo senti parlando? Sì, lo sento parlando però in lontananza. Lontano, lontano, proprio 00. Ma non sarai qua a altro canale, no? No, sicuramente lui ha toccato il coso delle... No, per il coso di un microfono. Beso mio. Ma era da casa un del 5-5, così è. Eia. Dire se vuole di oggi gli do il mio, tanto io non li uso praticamente, io ce l'ho il 5 nuovo nuovo. E aspetta, se riesce a entrare glielo diciamo. Mi interessa, cazzo. Glielo do, ma è nuovo qui, quello che c'ho io non è vecchio, capisci? E per cui per 50 glielo do io, eh. E aspetta che se entra. Mari, se entra glielo diciamo. Lo sento basso, basso lo sento. Ma chi so? Guarda che non ci avrai il coso del microfono chiuso. Attenzione, Bacchisio. Oh, io non lo sento, eh. Io lo sento proprio a 0-0. Ma appena, appena, appena lo sento. Come che se fosse in un altro canale. Passatina, vai. Mi sembra strano, sennò almeno di Santiago si dovrebbe sentire, ma non si muove nemmeno lago qua. Ah, ma manca a me mi si muovi lago, è proprio terra a terra. Va a fare una fattulata a Torre, se chi sia in qualche canale chiacchierando. Attenzione, signor Bacchisio. No, niente, Gio Marì. Deve essere qua, lui ha toccato, deve essere il coso del microfono. Oh no, oh non c'è il coso, boh. Anche mi ci ho messo le cuffie, vediamo un po', dai. No, Gio Marì, io no, adesso non lo sento per niente. Attenzione, Bacchisio. No, non c'è, non c'è. Boh, va, se ti tieni le manopoli a coso, boh. Ehi, ma qui vai a radio, la radio cazzo di 30 anni fa, cazzo, io. Cazzo, questi apparecchi così. Si trova subito. E sicuramente ho toccato uno dei tasti e no anda. Ho toccato la manopola dello squelci. Boh. O la manopola di sopra. Io non so. Non mi ricordo nemmeno come è fatto quell'apparecchio, quello che abbiamo noi, l'899. Non mi ricordo più com'è. È dentro la scatola, per cui non ti posso dire cosa può essere. Anche qua con questo, se secondo la sento con lo squeccio, poco a poco mi manca la voce. Deve essere, dipende dall'apparecchio che a chi entra giù con chi su è un altro. No, che ogni tanto attacca uno e magari esci un poco, da poi non esci più, è sempre così Bacchisio, mettersi col nuovo, il nuovo esce bene, io lo sento perfettamente con lo 899. Ma con quello deve uscire solo, va chi su giura va, le altre due sono KO. Allora parecchio ce l'ha come si deve, per cui non è possibile, ma lo squetch basta il mobile piano piano, lo squetch lascia fare subito lo difetto, no? No, a me pare che sia appunto con la manopolina di sopra, con quella non esci. Ah, così è, non mi ricordo io com'è questo apparecchio, non mi ricordo, ma ce l'hai sempre davanti, per cui lo usi di più di me, per cui magari lo sai com'è. Ah, ecco, se tocco la manopola in su non esce. No, perché quello è per il microfono o quello che si attacca con le cuffie. Ho capito. Vabbè, ma noi ci voglia molto, già le sa queste cose lui, non è che non sia un po' esperto, vai. Boh. Non deve essere un lockdown ancora, dal logoso. Ebbettore. Bello, buonasera signor Fra. Ogni tanto ci sentiamo. Avete ascoltato questo portatile? A voglia, a vaglia seddu. Però come te la mi ascoltavate, boh, io ho provato a vedere se mi sentivate. Ma che Gian Maria lo senti a Franco? Ebbè, se è confortato non lo sento, non dirà nessuno però fra Boh, ogni tanto ricco di una chitaccio puro. Allora, lo portati le l'antenna in gomma sono, Giovanni. E infatti, e ti c'è già più pio, no? Con l'antenna in gomma, allora. Cazzo, allora sei vicino a noi, no? E sono a casa, se sono a casa adesso. L'ho acceso a vedere. E sto facendo una... con l'antennino, mi Giovanni. A trattare, va bene, va bene. E la voce. Io non sono guantenino, non ha antenna lunga io, no. Fai il bastone di scopo e basta, sto, fra. Ho capito, dai. E adesso c'era quando non si stava al tetto, non posso fare niente qua. Un attimino, Gianmarì, e fra, io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Tra un 15 minuti, 20, ok? D'accordo, sto. Vai pure. Ciao, to a dopo, dai. Ehi, ok. Allora, fra, cosa ti racconti? Cosa ti racconto? Era in campagna, stavo sistemando da quelle cosette. Tutto lì. Adesso sono salito perché sta cominciando il freddo lì. Ma lì c'hai il camminetto, c'hai, no? Sì. Ma ci vuole la legna però lì, No, c'è anche la stufa, c'è tutto. C'è la stufa a pellet. C'è la zibro. No, ora si sta bene. Però siamo saliti perché dovevo fare cosa domani, capito? Ah, beh. Allora, Trebbie. Ma si sta dappertutto. Quando c'è caldo si sta bene dappertutto. Capito? Per cui... E lì da te, grazie a quelle camerole. E lì c'è fresco, se non c'è riscaldamento. Ma c'è la stufa pellet lì. È accesa, sì, sì. Cioè, quella camera è grandezza anche pure. Perché bisogna che sia caldo un po', eh. È tutta sistemata, tutto mobili nuovi, ho cambiato tutto, Giovanni, impianto elettrico, tutto. Bisogna rimodernarlo ogni tanto. E certo, non è come quando c'era Sina Maria, no? Ma te la ricordi come era? Tutta la mobile antichi. Ma lì c'è fatta grande Sina Maria, però, E pensare ha fatto mai grande anche il figlio tu. Certo che sì, Giovanni, quello sì, Sì, ho buttato un po' di roba e diciamo che ho sistemato un po' tutto, ho cambiato cucina, tutto. Vita nuova, per cui la vita bisogna andare, sulla vita bisogna andare sempre avanti. Certo che sì, bisogna modernare ogni tanto. Forza. Purtroppo sì, però magari perché ci sono i giovani adesso, magari che c'è la roba moderna, ma le persone a una certa età l'hanno avuto una vita questa roba, per cui magari avere altra roba moderna magari non piace abbastanza, magari, capito? Anche per tanti motivi, capito? Infatti gli antichi compravano un pezzo oggi, un pezzo domani, capito? Perché magari i tempi erano più critici, capito? Per cui non è che una cazzo mi vede il reddito, perché sta cazzo, quando vede poco, quando dice un buon cuore bisogna tenere un bel conto e bisogna sapere spendere, capito? E se conferma. Ci avrò pensato tutto quello che ci ho buttato io, a lei sarebbe dispiaciuto veramente, io credo, perché come era lei, certo. Ma ce ne sono parecchi che sono fatti così, certo, che gli piace la roba che hanno comprato quando si sono sposati e per cui la tengono bene e gli piace a darla, capito? È quello sì. Sì, ho cambiato. Dove c'era praticamente prima la cucina, ti ricordi? Una cucina nell'altra cameretta. Lì ho fatto la zona lavanderia e poi nell'altra camera, all'ingresso della porta, lì ho fatto tutta la cucina enorme, capito? Insomma, hai rimodellato, hai fatto bene, vai. Hai fatto bene. Allora, perché qua io ho messo le porte nuove, ho messo, preso la cucina nuova, mi sono fatto il bagno nuovo e tante altre cose, capito? Per cui anche noi, nonostante che noi non siamo dell'era di Marina, anche noi siamo giovani ancora, per cui bisogna anche rimodernare, capito? Sì, no, il bagno è stato tutto rifatto a nuovo, ho fatto tutto la vasca da bagno praticamente e abbiamo messo la luce. Quello faccio io pure, capito? Ci ho buttato tutto fuori e non andava più bene, no. Andava a dritto, da voi ai scirbini, anche gli scicchetti, no, anch'io mi sono messo la luce, per cui va più bene così adesso, capito? Tranquillo, no, è tutta un'altra cosa, e beh certo, con la luce entri, ti saponi, ti risciacqui, riesci pulito, qua c'è la vasca, devi svuotare, ripianare, ci vuole la vasca da bagno di acqua. Abbiamo modernato un po' di roba, per cui, però, non più da tanto, ecco, intanto per vedere una cosa diversa da prima. Certo, anche le finestre qua, anche le finestre tutte cambiate lo stesso, la porta, tutto. Io le porte le avevo già cambiate, già le stanno facendo le porte del bagno, di quella che apre e chiude come la ventola, no. A destra, a fuori e a dentro, quelle porte, quelle finestre stiamo facendo lì, in bagno e in cucina, attaccate proprio dove c'è la cucina, tra il terrazzino e la cucina, anche lì mi sto facendo fare quelle due porte, il resto è tutto fatto, capito? No, io ho fatto cambiare, quello era il terrazzo, perché non chiudeva bene, lo stesso nuovo, lo stesso, qui le finestre, per carità. Lo stesso cambiato, le porte è cambiate lo stesso, lui è un vecchio oramai, capito? Ho visto che quella tenda che c'era, quanti anni c'era quella tenda, era un po' vecchia pure, ma hai fatto bene e l'ha buttata in terra. No, quella cambiata e messa un'altra tenda, nuova, usata però buona. Ma l'ho visto da parecchio tempo, io si batte che magari quando sarà qua a Piazza del Segno scendo, passo lì vicino, per cui ho visto che prima c'era sempre una tenda, era un po' anche un po' malandata anche dal vento e da realtà pure quella, hai fatto bene, era cambiata, era ora di cambiarla. E il vento l'ha fatto a rovè, poi era tutta, diciamo che era già oramai, aveva toccato e rimaneva in mano, quindi buttata a terra anche perché era pericolosa, già mai capito, quindi. Mi ha dato una mano Luca a portarla su perché era pesante, siccome questa qua me l'hanno data ed era 5 metri e 20 e siccome che il terrazzo era 3,90 quindi l'ho voluto tagliare, capito? L'ho fatta a misura giusta dell'altra e l'ho rimontata. Ma hai fatto bene, no, ha fatto bene, una cosa che doveva fare la prima, però quando si trovava la Maria le persone anziane è diversa la questione, magari non volevano spendere più di tanto, capito? No, lei non faceva niente, assolutamente, addirittura quella camera da pranzo che c'era, vuoi a toccartela, c'era quel tavolo in noce, quelle altre sedie, capito? Già l'avevi vista com'era, la roba antica, tutta regalata, fuori, dai, via, cambiato di vane e tutto. Insomma, è rimodernato un po' tutto, vai. Va bene così, quando una cosa si può fare, si fa, e gli dà la signora. Quando lo finì però non puoi fare niente, Brahe. L'importante è che ci sia sempre da poterla fare. Si conferma. E piano piano le cose si fanno, dai. Piano piano, oggi fai un pezzo, domani fai un altro pezzo, e trica la ballacca, tutto lì. E così bisogna fare. Certo, sacrifici non si fa niente, però bisogna fare sacrifici per poter riuscire a avere un qualcosa di diverso, e purtroppo siamo tutti più o meno tutti così. sacrifici e io gli dà ragione, ma purtroppo con lo stipendio non è che puoi fare, puoi diventare ricco, oi. Oh carizzai, per carità, vabbè, andate così, andate così. Comunque ho provato quella matova 5 giù, fatta, l'ho tirata su un po', ho messo con Alghero, l'ho riportata giù perché quella la voglio montare qua, capito Giovanni? E beh, giù cosa lasci? Quella che ti ho fatto io. Giù la boomerang, lascio quella, tanto non è... Di solito, adesso comincia il freddo, me ne salgo qua, capito? Vabbè, allora sì, vabbè. Ma perché il tetto sta registrato da te? Eglia, stavamo sistemando il tetto, ma c'è... Ti ho fatto fare già le cose per il tubo, capito? La tegola finta, in modo che possa entrare già il tubo dentro, capito? Perché le staffe ci sono già. Quindi devi portare, metto il tubo direttamente con l'antenna e è fatta. Se hai fatto fare qualcosa del genere va benissimo. E almeno sei più tranquillo, va. Va bene, fra. Allora piazzala pure quella manca, ma tutta l'altra cosa. L'ho tutta recuperata, tutta sistemata, capito? Addirittura ne avevo due di queste matove 5 e una me l'avevano regalata. E c'era lo stilo centrale che era spezzato di netto. E quindi nella mia c'erano i cosi, ho recuperato tutti i radiali che mi servivano, il mozzo mio era nuovo, quello là era rotto, e quindi da due ne ho fatto una e funzionava benissimo, capito? Aspetta, un attimino. Eccoci qua. Stavo provando questa radio, Giovanni, un attimo. Guardami il segnale adesso. 1, 2, 3. Ecco, so con la somma mio, ho freddo. Il segnale è basso, molto basso. 3 di segnale, sì. No, stavo facendo una prova, eh. Adesso dovrebbe salire, aspetta un secondo, Guarda un po'. No, non è salito niente. Ma tu un antennino sei lo stesso? Sono con la Sombo 27 e poi non è che con lo Smitter proprio a legge non è che si possa dare un controllo preciso, capito? No, ero convinto che c'era l'antenna sul tetto, no, va bene, dai. No, stavo provando giusto una questione qua, stavo guardando il water se stava erogando. Ok, già va bene così, dai. KK, esce a vedere, no, se c'è stazionario, un attimo, perché qua, scusa un attimo, ok, qua è accordato, andate. Io sono con tre vacche, sono col presidente Barrio, questo c'ha tre vacche, questo apparecchietto, 40 canale, MFM. Omologato. E questo è un Tokai 5024, non so se lo conosci, 23 canali, vecchio modello. Già lo conosco, cazzo, l'ho avuto anche. L'ho avuto. Ma non è che c'hai dei quarti per quel 6 canale che ho io, Tokai? Devo guardare, Gio Marigiu, devo guardare, forse qualcosa ce l'ho, devo controllare. Che quarti ti servivano? Mi serviva allora i 10, i 23. Devo guardare, forse ce li ho, forse, non sono sicuro, devo controllare. Devo controllare perché su in Massarda c'ho un po' di roba, la devo portare giù. Poi gli altri 56 giri a 77, te lo ricordo, te lo dico. Per cui almeno metti in funzione anche quelle portatili, capito? No, è bello perché in alluminio bianco, proprio bellino, Ascolta, il pacco batterie è bene qua. Perfetto, perfetto, provato, va benissimo. Infatti io prima di darti l'avevo già provato, capito, per quello te l'ho detto. No, va benissimo, infatti non funzionava perché c'era qualche cosa che non funzionava bene, poi c'erano quelle mollette che non mi piacevano tanto, invece adesso ho visto che funziona anche con le batterie, per cui va bene, capito? Non funzionava perché mancavano dei punti lì, Gio Marì. Quindi non ti erogava tutta l'attenzione, ai 12 volt te ne erogava 8, capito? È proprio così, faccio, esatto, questo adesso è preciso, 12 volt per cui va benissimo. I 12 volt giusti giusti, da, perché l'ho misurato sotto strumento. Ed è così. È bellino, non è che lo usi, ma qualche volta così tanto va per starmi, capito? Beh, certo che sì. Io sto utilizzando la PCL 800 adesso. Ma va bene, capito? Va bene. Io l'altra parte, quella senza radiale, come si chiama, cazzo, della Sirio. Non so se l'hai vista quella che ho piazzato io su. Ah, c'è la Ringo. Esatto. Quello ho piazzato. Quante sono? 5,60 mi sembra che sia. 5,80. Se me l'avresti detto non te l'avrei fatta piazzare quell'antenna. Perché? Perché fanno TVA e non c'hanno resa di niente quelle antenne. Sono dei biduni. Ce l'avevo io una, l'ho regalata, Gio Marì. Nuova ancora nella busta. Vabbè, cazzo. Io ho provato e ti guai. Se per esempio con questa io con la somma non disubo 4 watt, se aumento più di 5 watt allora disubo. E ho visto che dentro, anche con quella antenna che stai dicendo tu, se metto 3 watt non disturbo, se metto 5 watt disturbo. Perché è più bassa rispetto agli antenne TV, quindi le frequenze di cosa di onda vanno a finire sulle sbatte, vanno a finire sopra il coso dell'antenna TV, capito? Ma mi sono accorto che anche sul 6009, cazzo, quando accendo quello diventa il quadro nero diventa, cazzo, puoi immaginare, perché è a zero, quello va anche a 35 watt, però la metto a zero e saranno 3-4 watt, però entra lo stesso lì, mentre invece quest'altro apparecchio lo metto a 2 e non entra, per cui è perfetta anche con quell'antenna, capito? Ma guarda, io non so, puoi fare quello che vuoi. Io con l'antenna a Ringo l'avrei buttata giù, no. Per mettere quella è meglio metterci una master, capito? Mi sono venuta a piazzare quella e mi fa bene, tanto la uso poco e niente io, capito? Poi io la uso, magari uso poco, non è che sono delle ore, io magari 5 minuti anche troppo, dopo lo spengo tutto e non mi interessa, mi piace ascoltare, capito? Per cui adesso la lascio e mi sta bene così. Vabbè, perché diciamo come a livello di antenna, come verticale, anche se è una 5 ottavi, essendo senza radiali, non c'ha nessuna resa, capito? Non c'ha guadagno di dB, niente. E quello è molto importante. Stazionario 1 e 2, però ho visto che già mi ricevono bene, ugualmente. In città va bene, ma dove sono io giù non va bene, Gio Marì. L'avevo già provata io. Vabbè, sì, certo, poi se è chiaro, secondo la telecamera non è che vada tanto. Ma qua per me già mi basta quella lì, capito? E se no avrei lasciato la mantova. Io la mantova l'ho buttata in terra perché avevo sempre paura che si rompesse i tiranti e me ne scendevo il tubo giù e faceva danno anche alle persone, capito? E allora l'ho dovuto buttare, a me con questo sono tranquillo e basta, per cui il tubo mi sembra che sia 2 metri e più l'antenna, per cui sono più tranquillo, capito? E pensavo a cercare, non è che è già passucciato, c'era tagliato un tirante e infatti era quasi in rosso, al punto mi deve fare l'antenna agli osso, e per cui ha avuto paura, sono salito e l'ho buttata in terra. Boom. Ho fatto male, la dovevi lasciare quell'antenna, era una bomboletta. Allora io ti posso dire, con quella boomerang va bene, già arrivo, chiaramente non posso erogare più di 300 watt perché non ritiene l'antenna. Però diciamo quando gli dai 50 modulati 100 riesce ancora a tirarle. L'altro giorno io l'ho portata giù a vedere, a controllare, ho detto perché c'era qualcosa che non mi convinceva. Ho controllato il radiale di massa, addirittura si stava sciogliendo, capito? Ragazzi, ma è così innanzi? Ah, io la stavo provando, prima ho provato con 50, poi gli ho sparato 100, poi sono andato a aumentare 200, poi ho visto una cosa strana, ho detto, boh, ho riabbassato, ho detto, domani controllo l'antenna. Ho controllato l'antenna, infatti, addirittura il proprio il radiale di massa, il piano di massa, ed è una frusta nera, si può dire caricata, che è tutta caricata, quella lì era già tutta fusa dentro, non fuso proprio, proprio la plastica sciolta ho visto. Oh, io con l'antenna facevo chi vuoi al nastro, guarda. L'ho tolta proprio per quello, perché chi vuoi al nastro, guarda. Mamma mia, guarda. E me l'hanno detto, beato, me l'hanno detto, quello ha fatto bene, me l'ha detto che entravo lì. E sulle altre, su queste non entro, non capito, sono tranquillo. Vabbè, Gio Mario, io l'ho montata in campagna, quindi diciamo che una villa privata, una casa privata, quindi non è che disturba, è tutto privato lì. Le antenne TV addirittura sono distanti, non è quello il problema, capito? Però per dirti la differenza, che io ho montato la Mantova 5, quindi provvisoriamente, perché c'erano solamente tre radiali, la stavo facendo andare con tre radiali, così, ma proprio appoggiata in terra senza metterla sul tubo, con un pezzettino di tubo sono adattato un metro da terra, giusto così per provare. Ho parlato con Alghero Santiago 9, capito? Tu pensa se io la porto su col telescopico che c'ho, un telescopico da 15 metri, due sfezzoni da 5,50 m all'uno, 12,50 m, dai. Se la piazzi lì dove si ha detto, certo, anche con 4 metri e anche va dappertutto, capito? Ma è normale, la Manto per tutto altri discorsi, cazzo, io con la Manto parlavo con tutti, però ripeto, avevo già le scatole piene, per cui sempre spaventato quando andava a vento che me ne scendeva, che c'erano, allora, sì, 8 metri di tubo in fila antenna, e quei tubi non senti pesava, cazzo, se ne scende giù, guardando, cazzo, ammazzerà culo, ma poi ne sì. Allora ho pensato di buttarla in terra, metto un saltinino così, e mi sta bene così, fra. Vabbè, io diciamo che l'ho voluta togliere, perché era tutta piegata, capito? Quindi sono dovuto salire su, perché era piegato il tubo. Poi qualche stronzo, senza fare nome, di qua, qualcuno che è salito, mi ha stracciato il filo dal PL, come ha tirato il filo, praticamente ne ha stracciato il filo, ne ha stracciato anche la basetta che c'era dal motto, capito? E quindi non funzionava più. Praticamente stava funzionando solamente col filo. Ma c'è lei la mazza per l'altro discorso, e tu c'hai un punto buono lì, cazzo, in quel punto è veramente ottima, cazzo. Certo che da lì vai bene per tutte le parti, capito? E poi l'antenna, già sappiamo che la mazza è stata sempre l'antenna con lo stesso. Come la butta sempre io per quando va bene. Però non mi interessa più tanto di ex, se non devo fare, parlo solo con questi di cluster e basta, mi interessa questo e basta. E vabbè, un gente dice master qua, master là, qua io ribadisco che come antenna a livello di verticale 58 per 27 non ce n'è, tra Mantova 1 e Mantova 5 secondo me sono il numero 1. Permesso, permesso. Ma chi se c'ha la Mantova 5 mi pare, però ma chi... Buonasera Gio Mario, buonasera Presidente Franco, mi sembra che sia, non ho ascoltato bene, avanti. Ciao Bacchisio, buonasera. Come sei così basso stasera? Stasera sono basso, sono in cantina, fra. Ah, per quello, ora stai travasando le botti del vino, ah? Scusate dal nastro. Giomarico, cosa sto andando? Con 899. Ma quell'apparecchio Bacchi va bene. Va bene, va che è un buon po' quell'apparecchio. Però strano che ieri lo sentivi basso a cosa, a Torre, come mai? Forse la radio che è andata in onda male, perché l'ho ritirato ieri a cambiare dei pezzi, oggi non vuole andare né avanti né indietro, quel rem al nastro è del mutto, sordo e muto. Ma io credevo che fosse quello lì ieri, capito? Ma tuttora abbiamo parlato, anche poc'anzi. Dice forse, dice, con l'899, dice, ha toccato la manopola di su, dice, e non sente niente, non legge. Noi abbiamo pensato a quello, Bacchì. No, pensavo che tu fossi con l'altro apparecchio, ma l'899 è una meraviglia, cazzo. E boh, ma chi? Io lo so che quell'apparecchio va bene. Spesso sono con l'899, ma ieri c'avevo il grande che avevo ritirato ieri sera. Ha funzionato una sera e boh. Ecco. Lo splatter di cosa c'ho di Emanuele, che se si scopriva completamente, Bacchi. Vecchio Bacchi, quattro infezioni, tutta questa. Sei nuovo e ti sentiamo bene, Bacchi, dai. Quell'altro è il migliore di questo, solo che, ripeto, è andato in normale, c'è qualcosa di storto. Sordo e muto è una brutta malattia, c'ha. Allora mi lasciamo a parte, via, per carità. Ma come lo senti adesso? Ma lascio fare un passaggio, Bacchi. Franco, sono rientrato. Aspetta, Bacchi. Ciao, dottore. Bacchi, ci sei aspettato. Ah, ben rientrato, dottor, mica c'è Franco. Sono rientrato. Signor Bacchi, buonasera. Buonasera, signor dottore, buonasera. Andiamo bene, andiamo male. Aspetta, Bacchi, fa un passaggio, vedo un po' a Franco come da lì. Franco! Allora, il rapporto di Torre è 5-9 più 10. 79? Sì, a Puglia. Bacchi già sta arrivando 5-7 qua, Bacchi. Sì, boh, strano, l'altra volta arrivavi 5-9 più 10. Probabilmente c'è qualcosa che non sta andando lì. Ho cambiato apparato. Buonasera. Ho cambiato apparato. Dunque, sto andando con l'889. L'altro, lo ripeto, l'ho ritirato ieri dal medico. Ha funzionato una sera e non funziona più. Domani devo andare dal medico. Non c'è il cascione della Mondezza lì vicino a te, quindi ti ritirate a Rugascione. Buonasera. Buonasera, chi è? Ciao Franco, buonasera. Ciao Maria, ciao Marchisio, ciao Dore, vai Fra. Emanuele, ciao Emanuele, buonasera. Ma chi sei se non tu va ridosso? E pare che vai a terra, va ridosso a tu. No, che qua, sta mia, Fra, diglielo tu, a vedere se scendi bene. Fai un passaggio, Emanuele. Se mi intendi certo va ridosso, mi ascolti, Fra? Ah, io l'ascolto bene, sto qua, sta arrivando... 7,9 più 20 a radio 5, ascolto benissimo. Manuele, da te come sto arrivando? 9,20 anche tu, radio super 5. Penso mi interessa sempre va in duscia, mi pare va la terra va in duscia. No, c'è qualcosa che come che state parlando in due. Ma va bene, riprendete, rimane ancora lì. Ma sicuramente è perché è troppo vicino a te, io lo ascolto bene qua. Sembra che stiano parlando in due. Aspetta. Non si avvisa, ma si intende. Pare che siano i papi bene in due, non è che ne intendo io solo, no. Ma ero già Marì. Non so se che attaccato a me, cazzo. Ciao, sento bene, mi fa cracchiarsi, capito? Sembra che stia friggendo qualcosa, però già è chiara la radio, no? Ma per la vicinanza, capito? Non per altro, sennò mi faccia tutti i nuovi, ma un poco. Cazzo, lui si arrabbia. Vabbè. Andiamo bene. Avanti, signor Bacchi. Ehi, a te, così è la vita. E così è un cavolo fiori. Mica se ne frega il Franco in campagna, all'aria aperta. No, vai a Caggia Giulia. Andiamo a fare una sopra pianzura, signor Bacchi. Quando c'è voglia ci parla, quando non c'è voglia c'è casino, mi ritiro, ascolto e poi chiudo tutto. Tutto lì, va bene così, dai. Allora, ti rispondo adesso, dottore, stiamo parlando Franco. Ieri ho ritirato quella Jason, no? l'ho messo sotto e funzionava benissimo, ma mi ha ascoltato bene ieri sera. Poi stasera sono sceso, l'ho acceso, boh, finito. Ma non si atteso a nulla. Atteso sì, ma poi il rem è a nastro senza modulazione, non ne esce e ne riceve. Certo, andiamo bene, andiamo. Ah, quello preciso è quello che ho io, sì. Disidentico, fratello. Solo che poi girando ho trovato a Franco, a Francesco, a Osimo, e ci arrivavo Santiago 1, dicendo, porco Dio mio. E c'è qualcosa che non va, e c'è qualcosa che non va. Domani lo riportiamo. Eh sì. E vabbè, signor Bacchino, infatti, forse c'è qualcosa che non va, la sicure. Avanti, Gian Marino. Ok. E infatti, bisogna riportarglielo e lo mettere a posto, senz'altro, capito, Bacchino? Succedono queste cose. Vediamo un po', Manuè. Rimane in quell'ixi, dai, ne prendete voi, Gian Marino. Fai su di là. Ti arrabbia di bambino in fretta. No, non è che mi arrabbia, se esco male cosa devo fare? Voglio non entrare e basta, cosa torno alla radio e se le butto dalla finestra, non è che mi arrabbio. Come si deve lampare, la radio io. Vabbè, dai, entra. Abbiamo che 5 DJ, abbassi. Più grazie. E cosa vuoi fare, capito? Vai, rimani frequento, dai. Ma io Giovanni lo ascoltavo bene a Emanuele, comunque qua. Non lo so, magari forse perché è troppo vicino a voi. Qua arrivava benissimo. Adesso ti dico un particolare, no? Quando Tore parla con un certo apparecchio, io accendo il mio e lo sento bla bla bla, una cosa del genere, bla bla, non è che riesco a capire, e per cui mi devo essere in quel ricco. E se ci parlo io, vuol dire lo sento bene, lo sento male e mi rimango in frequenza. E cosa mi fa? Vuol dire la ricezione del sole è più balorda di quella mia. Vabbè, certo che sì. Perché la ricezione non sono tutti uguali, fra da un apparecchio all'altro cambia la ricezione, capisci? Per cui c'è quello che arriva perfetto, c'è quello che arriva graffiante, c'è quello che arriva distorto, ma tu lo sai quanto me perché fa questo effetto un apparecchio dell'altro, capisci? Allora il problema è questo, allora io adesso sto usando i 5024 dalla Tokai 23 canali pilotato un MB più 5, anzi un MB più 4, e il segnale arrivi 9, se io attacco l'altro, anzi arrivi 8 qua lo toccai, se io attacco l'ala 68 arrivi 9, quindi vedi che c'è differenza di segnale da un apparecchio all'altro. Sì, ma però la ricezione cambia, perché a me magari mi puoi sentire bene, mentre a Torre se lo puoi sentire anche un po' rauco, un po' con gli acuti, eccetera. Io voglio dire quello, capito? Ho capito, Giovanni. E comunque da radio cambiano le modulazioni, sia modulazione che anche il segnale, tutto quanto, capito? Perché non lo so perché, però purtroppo anche a me fa lo stesso discorso. Se io attacco un'altra radio, il segnale è più basso. Attacco questa, il segnale è diverso, capito? Magari è attaccato a me, sì. Eppure, sì, è chiaro che magari sempre vicino lo sento un po' leggermente di sotto, però Tore più lontano dovrebbe sentire anche più bene, capito? Per cui Manuè, io fa un'altra prova, vediamo un po', dai. Che prova devo fare, Giovanni? Non mi interessa nulla, non sono arrabbiato, no, non è che sono, è perché mi devo arrabbiare, se mi sento così non è colpa mia, io non posso fare nulla. La modulazione è quella lì, non è che posso usare la modulazione, no. No, ma va bene, io ti sento bene, capito? Con questo apparecchio, magari se accendo l'altro ti sento un po' strano, capito? ma è per la vicinanza, e tu lo sai bene, te l'ho fatto anche sentire, che quegli apparecchi, tipi apparecchi, fanno questo effetto in vicinanza, mentre che in lontananza è perfetta la realtà, tutto lì. Ok, avanti bacchi. Via, è così. Ma noi non accavate mia per la mira, assata. Ci ascoltiamo bene, imparata. Aspetta, andiamo a togliere, avanti tu. Sì, Emanuele, non ti scappa, non essere incazzato. Per dire il timbro della radio che... Puttego devo abbassare, con l'altro devo alzare. Ecco cos'è. Ma è nudo, non ti arrabbiai. Ah, mi sto arrabbiando, non ci mancherebbe altro nel mondo. Ma io mi metto lì, mi arrabbio per la frequenza, ma non vale la pena. Io non mi sto arrabbiando. Vai, vedi, ma arrivano, passati a gol. 9:20 sta arrivando, quasi a 9:25 Emanuele. È il più forte di voi arriva qua, eh. Anche più forte di Gio Maria, più forte anche di Tetto, eh. Ti passa, eh. Ok. Va bene, no, va, figurati. Sono cose che purtroppo la radio a radio dipende. Anche mi so, la radio Biduni e la radio Fustini, capito? Dipende sempre quale tipo di radio si usa. Ma infatti quando parla a storia si accende un altro tipo d'apparecchio, lo sento un po' strano, capito? Ma capita queste cose, per cui purtroppo sono così, vai, niente di serio, niente di cose, vai. Avanti, signor Bacchi, riprende tu, dai. Lo so, sono io, un attimo. Tutti che fanno il cucchiacca piccolino. Riprendi, fra. Eglia, andar bene, Gio Maria, kappa. Stavo dicendo a Bacchiccio, ma cos'è, non ti sta dando fatti quella radio, Bacchi? Aspetta, se ho sentato un attimino. Vai, Emanuele, riprendi tu. Eglia, ok, ti stavo dicendo, fra, guarda che interessa il 67.000 della Iaesu. 7.000 Iaesu? Quanto lo stai dando? No, Iaesu, scusa, della Ico, il suo Ico. Ah, ho capito, posso chiedere, quanto lo stai dando più o meno? 600, non di meno, Quanto? 600, non di meno, è nuovo, nuovo di pacca. Cappa, provo a chiedere, dai, vediamo un po'. Ok, dai, domani con lei, fa girare. Cappa, ma noi, andiamo, dai. Vai tu. Ia. Andemmo. Chiatta, bebe. E facciamo così, facciamo. Spero Gio Maria si è sentato, è andato a fare una telefonata. Avanza che mi telefonavi. Fra. Il 7.000 della Incon già è buono. È una bella radio, sì, no, già l'ho vista nel catalogo, capito? Sì. E oramai, io sto usando, guarda, questo toccai che me l'hanno dato, la verità. Questo toccai mi ha dato un amico di Ottieri, ma detto che era di un tipo che non lo stava, ce l'aveva lui sempre nella macchina, poi è venuto la macchina da tutto. E mi ha detto che te ce l'ho lui, guarda se funziona, infatti non usciva perché c'erano dei fili della trasmissione del microfono che non erano staccati. Io l'ho sistemato, l'ho provato, ho detto ma già funziona bene. Allora gli ho adattato un microfono adattato, un MBP4 che avevo qua. E ho visto che sta funzionando, va bene da 5 watt, più di 5 non le dà, 4 watt e qualcosa, quasi 5 watt. Sì, l'importante è che funziona. E arriva 27, l'importante è che funziona. AMFM, no. No, negativo, solo AM. Ah, solo AM. Però peso un trono, vai terra, enorme. È bruttina come radio, non è molto bella. Che so, di portati lì un'antenna ronda? No, il 5024 è quello che c'ho io, la stazione è quella 12 volt, capito? Per la macchina, vabbè. Ho compreso. Cosa vuoi fare? Pensate che funzioni. Certo. E l'altro ce l'ho giù, capito? Ah, ma c'ho anche il coso, l'S9, capito? Arrivato. E riprende la signor Bacchi. No, sono Franco, diciamo, la radio brutta. Mandami il suo bel letto a fargli fare un coso alla faccia. Amica, sei a vero, bacchi, per carità.